Padre Pino non era né per natura né per convinzione un rivoluzionario o un agitatore. Era indubbiamente interessato ad approfondire il problema e ne percepiva i risvolti. Era soprattutto convinto che tra fede e carità dovesse esserci spazio per ogni resistenza, ogni denuncia e ogni lotta, ma era altresì persuaso che era imprescindibile partire dalla testimonianza della vita. Sapeva di dover riflettere e non si sottraeva a nessun confronto o dialogo anche con i confratelli più schierati, ma manteneva la sua autonomia di giudizio. Molti si domandavano: che cosa deve fare il prete in una chiesa come quella di Palermo, posta in una situazione di frontiera? Padre Pino sentiva il dolore della domanda, ma si chiedeva: come deve essere fatto un prete? Del prete gli interessavano indubbiamente l'intelligenza e la competenza nell'affrontare i problemi. Quando morirà, troveranno il suo appartamento stipato di libri. Ma gli interessava soprattutto il cuore dei ministri di Dio, o meglio, gli interessava quel centro della persona in cui mente e cuore si decidono irrevocabilmente per Dio, una decisione integrale che si chiama santità. Nel 1978 cominciò a insegnare religione al liceo Vittorio Emanuele e qui lo raggiunse la nomina a direttore del centro diocesano per le vocazioni. Gli anni Ottanta li passò così a coltivare la passione della sua vita, aiutare schiere di giovani a comprendere e realizzare la propria vocazione. I centri vocazionali erano allora una novità. Cominciò ad organizzare campi scuola per ragazzi delle diverse età. Il campo base, sempre autogestito perché voleva che i ragazzi imparassero la bellezza del servizio reciproco, serviva a spiegare che nella vita può anche essere facile dire di sì, ma il problema vero è quello di sapere dove andare, di dare il proprio assenso con la gioia e l'entusiasmo di chi ha scelto una meta che vale. Sì, ma verso dove? Questo era lo slogan che campeggiava sul poster programmatico. Padre Pino sosteneva che tutta la pastorale parrocchiale avrebbe dovuto essere impostata in termini vocazionali. Lo ripeterà perfino a Brancaccio, giudicando l'opera della mafia alla radice come distruzione sistematica della vocazione cristiana di bambini, ragazzi, adulti, famiglie. A coloro che erano chiamati al matrimonio lasciava questa consegna: amandovi, dite al mondo che Dio c'è. E spiegava loro quanto fosse brutta una casa in cui le porte si aprono verso l'esterno. Pare che ti sbattano in faccia la porta. Invece la famiglia deve accogliere. Che cosa poi fosse un prete lo diceva quel poster che gli era caro e che egli metteva sempre in evidenza: un grande orologio senza lancette e la scritta: per Cristo a tempo pieno. Nel 1990, dunque, padre Puglisi fu nominato parroco a Brancaccio, dove resterà 3 anni, gli ultimi della sua vita. Era una borgata periferica che in seguito giornalisti e magistrati avrebbero definito ad alta densità mafiosa. In realtà ciò significava che circa 8.000 abitanti erano abbandonati in mano ad una consolidata dinastia mafiosa, mentre le autorità civili e politiche erano in parte assenti, in parte impotenti e in parte complici. Sarà lo stesso parroco a presentare così la parrocchia ai volontari accorsi ad aiutarlo. C'erano, diceva, 4 strati sociali: gli antichi abitanti del posto, un tempo proprietari agricoli, divenuti ricchi con la vendita dei terreni, e tra essi allignavano la mentalità e il potere mafiosi. C'erano i braccianti di un tempo rimasti disoccupati e in estrema povertà, che vivevano in catapecchie, anche 10 persone in una sola stanza. C'era una presenza di borghesi frettolosi e distratti nei palazzi nuovi e poi c'erano più di 200 famiglie deportate dal centro storico e ammassate in palazzoni costruiti dalla mafia, acquistati e gestiti dal comune, con traffici perlomeno strani. Erano in gran parte famiglie sradicate, povere culturalmente e moralmente, tra le quali erano diffusi l'analfabetismo, l'evasione scolare dei bambini, le coppie irregolari, il lavoro nero, lo spaccio di droga, l'abitudine al furto, la più assoluta trascuratezza igienico-sanitaria. Da questo bacino la mafia traeva i suoi manovali ed era l'unico potere riconosciuto dal quale sperare qualche favore. A tale scopo il degrado era mantenuto e favorito. Mancava una rete fognaria, mancava una scuola media, mancava un distretto sociosanitario, mancavano spazi verdi, mancava l'erogazione regolare dell'acqua potabile, era scarsa perfino l'illuminazione. Bambini in età scolare avevano per casa e per scuola la strada, dove con la compiacenza e lo stimolo degli adulti si allenava ai piccoli furti, alla prepotenza, alla vendetta, alla violenza, seviziando animali randagi, ed assorbivano quella mentalità che li gettava infallibilmente in braccio alla mafia. Possiamo immaginare la pena di padre Puglisi e dei suoi collaboratori quando, dopo l'assassinio del giudice Falcone, ne videro un gruppo correre trionfante per le strade del quartiere gridando «La mafia è forte, la mafia vince». Quando verrà celebrato il processo ai mandanti e agli esecutori dell'uccisione di padre Pino, emergerà un vero inferno. I capimafia della zona gestivano bande diversificate per obiettivi, organizzazione di omicidi e di lupare bianche, incendi di negozi, estorsioni e riscossioni del pizzo, rapine ai tir che transitavano in viale della regione sull'autostrada Palermo-Catania, riciclaggio di denaro sporco, traffico di armi e di stupefacenti, prostituzione, organizzazioni di stragi anche a livello nazionale. Ma già allora tutti sapevano che certi scantinati di quei palazzoni tirati su dalla mafia e apparentemente abbandonati al primo venuto servivano come deposito d'armi e di droga, centro di scommesse clandestine e prostituzione anche minorile. E padre Pino e i suoi amici si intestardivano a chiedere che quegli scantinati fossero risanati e tramutati in scuola media. Rievangelizzare e ricristianizzare il quartiere, questo fu l'obiettivo che il nuovo parroco si propose. Il suo primo intervento riguardò la parrocchia in senso stretto, a partire dalla chiesa e dagli ambienti parrocchiali. Decise di ripulirla da ogni collusione. La volle perciò libera dai politici che venivano a chiedere voti in cambio di promesse, libera da comitati che organizzavano la festa patronale e la usavano come trampolino di lancio per ostentare i loro poteri, i loro traffici, libera da sudditanze che spingevano a chiedere come favore ciò che era un diritto, libera da questue che rendevano i beneficiati ossequiosi verso eventuali benefattori, libera dalle paure. Il secondo intervento riguardò i parrocchiani. Ce n'erano di buoni e ne trovò alcuni che si erano già alleati formando un libero comitato intercondominiale impegnato nel tentativo di dotare il quartiere dei servizi essenziali. E fu nei loro riguardi che padre Pino mostrò tutta la sua santa genialità. Si dice spesso che il carisma del prete è quello della carità pastorale con cui deve servire il popolo che gli è affidato. Ma carità pastorale significa anzitutto amore a Cristo al punto da somigliargli. Ed è anzitutto questo amore personale che padre Pino chiedeva a se stesso per poterlo poi chiedere anche ai volontari e ai parrocchiani. Per quanto degradato fosse il quartiere, egli osava impostare la questione fondamentale esattamente così, sono sue parole. Come parlare di Cristo? Dobbiamo cercare di presentare da innamorati la figura di Cristo, per sperare che ci stiano a sentire. Ciascuno di noi dovrà fare da mediatore, dovremmo fare innamorare gli altri di Cristo, ma logicamente occorre che già noi siamo carichi di questo innamoramento. E questo coraggio nel parlare di innamoramento di Cristo al punto da volere collaboratori carichi di innamoramento, che fa di padre Pino Puglisi una figura atipica tra molti preti che si lasciano sì afferrare e sommergere dai bisogni sociali, ma non si curano abbastanza di innamorare se stessi e la propria gente nei riguardi di Gesù.